Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il sommario di oggi, nella sua prima intervista, il neo sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Simona Vicari parla della riforma dei porti e annuncia un impegno per colmare il deficit logistico del Sud, puntando su una mobilità sempre più sostenibile. Pasquale Russo, segretario generale di FAICONF Trasporto e Unatras, commenta il piano presentato dal ministro Delrio per rilanciare il trasporto merci via ferrovia e quindi l'intermodalità. Simona Vicari, palermitana, quindi ha lasciato il Ministero dello Sviluppo Economico ed è entrata a far parte della squadra del ministro Graziano Delrio. Affiancherà il viceministro Riccardo Nencini e l'altro sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. Poche ore dopo il suo insediamento in piazzale Porta Pia l'abbiamo intervistata partendo dalla riforma dei porti appena varata dal governo. Io adesso arrivo nella parte finale in cui tutto ciò va applicato, va attuato e va reso compatibile con quello che trovi nei territori. Devo dirle che da donna del sud mi piace molto questa riforma, secondo me è una grande occasione e lavorerò per questo, nel senso che cercherò di seguire l'applicazione di questa riforma al sud, in Sicilia, cosa effettivamente comporta e organizzare al meglio, ma credo anche che per il sud e per la Sicilia sia una grande occasione di ricominciare. Noi siamo rimasti abbastanza al palo per spazi intermodali, intermodalità, porti, aeroporti, interconnessioni tra loro. Da Napoli in giù se ne parla molto poco, anche l'alta velocità si ferma a Salerno. Ecco, io spero che il mio lavoro, la mia visione, avendo anche fatto il sindaco, sono molto di territorio, come politico posso dare un forte impulso, un forte contributo affinché molte delle infrastrutture pensate possano diventare una grande realtà per il sud del nostro paese. Anche lì spesso si dice l'Italia sarà quello che sarà capace di fare il sud, perché il nord senza il sud non ha dove andare. Bene. Però cosa abbiamo fatto effettivamente per equiparare queste due parti dell'Italia? Assolutamente nulla. Al di là delle infrastrutture c'è la necessità che questo paese faccia finalmente sistema. È una questione culturale, direi. Ci sono tanti pezzi importanti del nostro paese che oggi possono essere all'avanguardia, possono reggere una competizione mondiale, ma sono casi isolati, non hanno fatto sistema. Allora occorre con grande forza, lucidità, ma il tempo anche di governare, di queste eccellenze metterle a sistema e dare insomma quella spinta finale al nostro paese per essere competitivi a livello mondiale, anche perché tutto ciò che è italiano in qualche modo fuori l'Italia fa breccia. È come un po' con le reti d'impresa, no? Se io un'impresa la lascio sola è destinata a morire, e così anche una portualità. Se invece è messa in un sistema di distretto di imprese è più competitiva e riesce insomma a sopravvivere e a dare quella svolta economica che in quel paese serve. Poi la grande sfida è quella di una mobilità sempre più sostenibile. Sarà un altro dei nostri obiettivi. Sugli aspetti insomma delle emissioni anche di CO2 siamo stati bravi come paese, abbiamo delle sfide sempre più importanti, e quindi se non abbiamo una mobilità sempre più ecologica, sempre più diciamo legata all'energia rinnovabile, anche lì il nostro paese resta al palo. L'intermodalità può essere anche una chiave di volta in questo senso. Esatto, diventa diciamo, una condizione sine qua non dalla quale non si può più scappare. Lavoreremo per questo. Il rilancio del trasporto di merci via ferrovia è stato al centro del confronto che si è svolto nei giorni scorsi a Roma tra il ministro Graziano Delrio e le associazioni del comparto dei trasporti e della logistica. Un incontro organizzato dalla struttura tecnica di missione coordinata da Ennio Cascetta. Obiettivo di fondo, ha detto Delrio, è quello di ridare competitività al sistema logistico nazionale, obiettivo che va perseguito puntando sulla sostenibilità ambientale. Per commentare le linee programmatiche e i contenuti emersi durante il confronto al Ministero è in linea con noi Pasquale Russo, segretario generale di FAICONF Trasporto e Unatras. Russo, il mondo dell'autotrasporto come valuta questa impostazione? Ma la valutazione che il mondo dell'autotrasporto dà sulla possibilità di integrare la modalità stradale con altre modalità, quindi anche il ferro, è certamente una valutazione positiva. Bisogna comprendere un aspetto però, che oggi in Italia il traffico che corre sui binari è pari al 6% del totale delle merci trasportate. Per cui, anche volendosi porre un obiettivo forte, importante, che noi, ripeto, condividiamo perché può essere un elemento di rilancio anche per le aziende di autotrasporto, dicevo, anche volendo porsi obiettivi importanti, quindi una crescita ad esempio del 50% della quota del traffico ferroviario, ciò significherebbe che dal 6 si passerebbe al 9%. Bisogna investire tanto, bisogna lavorare tanto affinché la ferrovia possa prendere quote di mercato e affinché possa, come dire, essere anche uno strumento a disposizione dell'autotrasporto, ma ricordiamoci che in Italia comunque la quota rilevante più importante cammina necessariamente su gomma. E voglio aggiungere questo, non soltanto questo avviene in Italia, questo avviene in tutti i grandi paesi europei e in tutte le parti del mondo. Si pensi ad esempio che negli Stati Uniti la quota del ferroviario è un po' più alta di quella italiana, parliamo dell'8,5%. Mare bonus, ferro bonus sono inseriti nella legge di stabilità, ma per applicarli devono essere ancora redatti i decreti attuativi. Sì, siamo in attesa di questi decreti, ovviamente questi decreti dovranno essere scritti in maniera tale che queste risorse siano un incentivo reale, quindi che servano soprattutto a far crescere queste famose quote di mercato e che non sia invece un sussidio, cioè saremmo contrari ad una misura, ad un decreto che eventualmente dovesse prevedere dei soldi a chi già tradizionalmente fa la ferrovia. Noi riteniamo che queste risorse vadano date seguendo un principio che è il principio incrementale, cioè soltanto a quei soggetti che dimostrano di aver incrementato il proprio ricorso alla modalità ferroviaria. C'è poi la questione, direi cruciale, che è quella del contrasto al cabotaggio abusivo. Il cabotaggio, lo ricordiamo, è la possibilità per le imprese di erogare servizi di trasporto anche all'estero entro determinate regole. Regole che però vengono spesso violate a scapito delle imprese nazionali, sconvolgendo e inquinando il mercato. Altri paesi come la Francia o la Germania hanno fatto delle misure proprio per limitare fortemente l'ingresso abusivo di trasportatori, diciamo, stranieri che non rispettano il cabotaggio. Quindi anche in Italia abbiamo chiesto e ottenuto dal governo che ci fosse una regolamentazione che consentisse alle forze dell'ordine di poter controllare meglio le imprese europee che vengono a fare cabotaggio in Italia. Voglio ricordare che questo è un tema di grande attualità perché è inserito tra le misure che saranno discusse a livello comunitario nel pacchetto stradale e la nostra organizzazione è già in contatto con le altre organizzazioni dell'autotrasporto europeo, ma anche con, diciamo, la Commissione e il Parlamento affinché il cabotaggio possa, come dire, essere una pratica che in qualche modo favorisce la circolazione delle mezzi e delle imprese nell'ambito del territorio europeo, ma che sia una pratica però legale. Pasquale Russo, grazie e buona giornata. Grazie a voi. L'eventuale sospensione del trattato di Schengen, un'ipotesi caldeggiata nelle scorse settimane da alcuni stati a partire dall'Austria, avrebbe effetti pesantissimi sulle imprese della logistica e quindi sull'intero comparto. L'ultimo rapporto è stato elaborato da un osservatorio francese, France Stratégie, secondo il quale la reintroduzione dei controlli alle frontiere comporterebbe l'immediato aumento dei costi del trasporto pari al 3% del valore della merce. Questo aggravio in prospettiva si tradurrebbe solo per la Francia in un calo del prodotto interno lordo di quasi mezzo punto. Nel frattempo c'è chi ha già chiuso le frontiere ai mezzi pesanti. È la Russia che ha sbarrato 18 dei 19 valichi di confine con la Bielorussia. Gli autotrasportatori sprovvisti di passaporto russo o bielorusso possono transitare solo dalla frontiera di Krasnaya Gorka, che si trova sulla strada internazionale M1. E ora una notizia che riguarda non solo i conducenti professionali, ma anche gli automobilisti. Parliamo infatti di patenti di guida. Prima il colloquio medico, poi un questionario ed infine un test su stimoli visivi associato ad un altro questionario. Così si valuterà se gli aspiranti al rinnovo o al rilascio della patente costituiscono un rischio per la circolazione stradale in quanto affetti da sospetta sindrome di apnee ostruttive nel sonno OSAS. È quanto prevede il decreto del Ministero della Salute che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento in particolare determina gli indirizzi medico-legali da osservare per accertare l'idoneità alla guida dei soggetti affetti o sospettati di essere affetti da questa patologia. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio.